Pronti? Motore. Partito. Ciac. Azione. Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore. Il rigido inverno non lo assiderava. Audiogrammi di Laura Faggin e Paolo Corleoni. You are a cinema, a Hollywood treasure. I love you just the way you are, a cinema, a cinema. Mettetevi comodi, stiamo per raccontarvi Il canto di Natale di Charles Dickens. La vigilia di Natale, Ebenezer Scrooge, un vecchio avido, solitario e nemico del Natale, riceve la visita del fantasma del socio defunto Jacob Marley, che gli annuncia la visita di tre spettri. Action, thriller, I could watch you forever. You are a cinema, a Hollywood treasure. Audiogrammi in radio come al cinema. Prima di tutto, Marley era morto. Nessun dubbio su questo. Il registro mortuario parlava del prete, del chierico, dell'appaltatore delle pompe funebri e della persona che aveva guidato il carro funebre. Sì, è morto. Morto stecchito. Il certificato di morte, signore. Scrooge vi aveva apposto la sua firma e il nome di Scrooge, su qualunque fogliaccio fosse scritto, valeva tant'oro. Scrooge e il morto erano stati soci per non so quanti anni. Scrooge era il suo unico esecutore testamentario, unico amministratore, unico procuratore, unico legatario universale, unico amico. Anzi, il nostro Scrooge, che per verità il triste evento non aveva fatto terribilmente spasimare, si mostrò sottile uomo d'affari il giorno stesso dei funerali e lo solennizzò con un negozio coi fiocchi. Ma che stretta sapevano avere le benedette mani di codesto Scrooge! Come adunghiavano, spremevano, torcevano, scuoiavano, artigliavano le mani del vecchio strozzino! Aspro e tagliente come una pietra focaia, dalla quale nessuno acciaio al mondo aveva mai fatto schizzare una generosa scintilla, chiuso, sigillato, solitario come un'ostrica. Il freddo che aveva di dentro gli gelava il viso decrepito, gli cincischiava il naso puntuto, gli accrespava le guance, gli stecchiva il portamento, gli arrossava gli occhi e gli assottigliava le labbra. Si mostrava fuori in una voce acre che pareva di raspa. Sul capo, nelle sopracciglia, sul mento asciutto gli biancheggiava la brina. Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore, il rigido inverno non lo assiderava. Non c'era vento più aspro di lui, non c'era neve che cadesse più fitta, non c'era pioggia più inesorabile. Una volta, la vigilia di Natale, il vecchio Scrooge se ne stava a sedere tutto affaccendato nel suo banco. Il tempo era freddo, uggioso, tutto nebbia, e si sentiva la gente di fuori andar su e giù, traendo il fiato grosso, fregandosi forte le mani, battendo i piedi per terra per scaldarseli. Gli orologi del vicinato avevano battuto le tre, ma era già quasi notte. L'uscio del banco era aperto per dar modo a Scrooge di tener d'occhio il suo commesso, il quale, inserito in uno stanzino più in là, attendeva a copiar lettere. Scrooge non aveva per sé che un fuocherello, ma tanto più misero era il fuocherello del commesso che pareva fatto di un sol pezzo di carbone. Non c'era verso di accrescerlo perché la cesta del carbone se la teneva Scrooge con sé. Felice Natale, zio! Che Dio vi protegga! Gridò una voce gioconda. Era la voce del nipote di Scrooge, piombato nel banco così d'improvviso che lo zio non lo aveva sentito venire. Da, scempiaggini! Il Natale è una scempiaggine, zio! Non lo pensate di certo! Felice Natale! Che ragione hai tu per essere felice? Sei piuttosto povero. Che diritto avete voi di essere cupo? Siete piuttosto ricco. C'è il piageri! Non siate così di malumore, zio. Come potrei non esserlo se devo vivere in un mondo di stolti come questo? Felice Natale. Cos'è il Natale se non un giorno di scadenze quando non si hanno denari? Un giorno in cui ci si trova più vecchi di un anno e neanche un'ora più ricchi? Se potessi fare a modo mio, ogni idiota che se ne va in giro con codesto Felice Natale in bocca andrebbe bollito insieme al suo pudding e sotterrato con uno stecco di agrifoglio nel cuore. Zio! Nipote! Festeggia il Natale come ti pare e lasciamelo festeggiare come mi pare. Festeggiare? Ma se voi non lo festeggiate, anche se in tasca il Natale non mi ha mai messo una briciola d'oro o d'argento, sono persuaso che mi abbia fatto del bene e dico Dio lo benedica. Il commesso non si seppe tenere dall'applaudire dal fondo del suo stanzino, ma subito accortosi dell'errore, si affaccendò ad attizzare il fuoco e riuscì a distinguere anche l'ultima scintilla. Sei proprio un bel oratore. È curioso che tu non sia in Parlamento. Non arrabbiatevi, zio. Vi aspettiamo a cena da noi domani sera. Il nipote uscì, senza lasciarsi sfuggire di bocca una sola parola dispettosa. Andò via tranquillo e si fermò un momento alla porta esterna per fare i suoi auguri al commesso, il quale, gelato com'era, aveva però addosso più calore di Scrooge, perché cordialmente li ricambiò. Felice Natale, zio! Buon pomeriggio! E felice anno nuovo! Buon pomeriggio! E auguri di un felice Natale anche voi, signor Cratchit. Felice Natale a voi, signore. Eccone un altro. Un commesso che guadagna 15 scellini la settimana, con una moglie e dei figli, che parla di un felice Natale. Mi rinchiuderò in manicomio. Scavengers and sycophants and flatterers and fools, Pharisees and parasites and hypocrites and ghouls, calculating swindlers, prevaricating frauds, perpetrating evil as they roam the earth in hordes, feeding on their fellow men, reaping rich rewards, contaminating everything they see, corrupting honest men like me. Codesto lunatico, intanto, facendo uscire il nipote di Scrooge, aveva introdotto due altre persone. All'aspetto e ai modi erano gentiluomini, si tolsero il cappello e si inchinarono a Scrooge. Avevano in mano fogli e quaderni. Ah, buon pomeriggio. Scrooge e Marley, suppongo. Ho io il piacere di parlare al signor Scrooge o al signor Marley? Il signor Marley è morto da 7 anni, giusto questa notte. Oh, ma non dubitiamo che la sua generosità sia ben rappresentata dal socio superstite. In questo gioioso tempo dell'anno, signor Scrooge, è più che mai auspicabile far qualcosa, anche poco, per i poveri e gli indigenti. Sono migliaia quelli a cui manca financo il minimo benessere, signore. Io non festeggio il Natale e non vedo per quale sorta di motivo dovrei far festeggiare dei perdigiorno. Arrivò l'ora finalmente di chiudere il banco. A malincuore Scrooge smontò dal suo sgabello, dando così un tacito segno al commesso, il quale soffiò subito sulla candela e si pose il cappello. Non ci sarete per tutto il giorno domani, immagino. Beh, se non vi spiace, signore. Certo che mi spiace, e non è affatto giusto. Se vi trattenessi mezza corona dal salario vi sentireste maltrattato, e tuttavia non ritenete che il maltrattato sia io se vi pago una giornata senza che lavoriate? Ma è solo una volta l'anno, signore. Bella scusa per ficcare le mani in tasca a un galantuomo ogni 25 di dicembre. Ma suppongo di dovervela dare l'intera giornata. Però vedete di venire ben per tempo dopodomani. Signore. Il commesso promise e Scrooge se ne uscì grugnendo. Il banco fu chiuso e il commesso se ne andò a fare una sdrucciolata sul ghiaccio dietro una brigata di monelli, in onore della vigilia di Natale, e poi dritto a casa a Camden Town. Scrooge fece il suo malinconico desinare nell'usata malinconica osteria. Diede una scorsa a tutti i giornali e si avviò a casa per mettersi a letto. Abitava a una sfilata di stanze, già un tempo proprietà del socio defunto, in un vecchio e bieco caseggiato che si nascondeva in fondo a un vicolo. Non ci abitava che Scrooge. Tutte le altre stanze erano date in affitto per studi di commercio ed era così buio che lo stesso Scrooge, pur conoscendolo pietra per pietra, vi brancolava. Ora, è certo che il battiporta, oltre a essere massiccio, non aveva in sé niente di speciale. È anche certo che Scrooge, da che abitava lì, l'aveva visto mattina e sera, Si badi anche al fatto che Scrooge non aveva pensato un sol momento a Marley, dopo averne ricordato la morte, avvenuta quel giorno stesso di 7 anni addietro. E dopo di ciò, mi spieghi chi vuole come accadde che Scrooge, una volta infilata la chiave nella toppa, vide nel battiporta, da un momento all'altro, non più un battiporta, ma il viso di Marley. Il viso di Marley. Non era avvolto, come ogni altra cosa intorno, nell'ombra fitta. Anzi, mandava un certo bagliore livido come un gambero andato a male in un ripostiglio buio. Non era accrucciato o feroce. Fissava Scrooge come Marley soleva fare. E lo fissava con occhiali da spettro alzati sopra una fronte da spettro. I capelli ondeggiavano sinistramente, come mossi da un soffio o da un'aria calda. Gli occhi, benché sbarrati, erano immobili. La faccia livida. Una cosa terrificante. Scrooge si fermò e stette a guardare il fenomeno. E il battiporta tornò ad essere un battiporta. Non si può dire che egli non trasalisse e che il sangue non gli desse un tuffo, come non gli era mai avvenuto. Non di meno riafferrò la chiave che aveva lasciato un momento, la girò con forza, entrò e accese la candela. Prima di chiudere la porta, si piegò cautamente a guardare dall'altra parte. Ma non c'era nient'altro che le capocchie delle viti che reggevano il battiporta. Balzanate! Disse Scrooge e sbatacchiò la porta. See the phantoms filling the sky around you. They astound you, I can tell. These inhabitants of hell. Poor wretches whom the hand of heaven ignores. Beware, beware, beware. Lest their dreadful fate be yours. Rimbombò un rumore per tutta la casa come un tuono. Scrooge mise il paletto alla porta, chiuse la doppia mandata, si tolse la cravatta, si infilò nella veste da camera, nelle pantofole e nel berretto da notte. Sedette davanti al fuoco per prendere il suo decotto. Appoggiando il capo sulla spalliera della poltrona, gli cadde lo sguardo sopra un campanello disusato, che per una ragione o per l'altra comunicava con una stanza posta in cima al caseggiato. Con un rumore grande, con un terrore nuovo, inesplicabile, egli vide quel campanello dondolare un poco. Dava appena un filo di suono, ma di lì a poco prese a squillare con violenza e tutti i campanelli della casa risposero a quello squillo stridente. Successe a quel suono un rumore di ferramenta uscente dalle viscere della terra, come se qualcuno al piano di sotto strascicasse una grossa catena. Scrooge si ricordò allora di aver sentito dire che gli spiriti strascinano delle catene. Il rumore si fece sempre più forte, poi si udì suonare su per le scale, poi venne difilato verso la camera. Si fece bianco però quando subito dopo lo spettro traforò la porta massiccia e gli entrò in camera davanti agli occhi. Chi siete voi? Chiedimi chi sono stato. Chi siete stato? In vita sono stato il tuo socio Jacob Marley. Marley, col solito panciotto, le braghe attillate, gli stivaloni, con le falde del soprabito e coi capelli ritti sul capo. La catena strascinata lo stringeva alla cintola. Era lunga e gli si avvinghiava intorno come una coda. Ed era fatta, come Scrooge ebbe a notare, di scrigni, chiavi, lucchetti, fogliacci e pesanti borse di acciaio. Tu non credi nella mia esistenza? Io no. Perché dubiti dei tuoi sensi? Perché un non nulla è sufficiente a turbarli. Un lieve mal di stomaco muta il bianco in nero. Potreste essere un indigesto pezzo di carne. A questo punto lo spettro diede uno strido orrendo e scosse la casa con così tetro e rovinoso frastuono che Scrooge si tenne forte alla seggiola per non cadere svenuto. Ma come crebbe il suo terrore quando, togliendosi lo spettro la benda che gli fasciava il capo, quasi sentisse troppo caldo, la mascella inferiore gli ricascò sul petto. Scrooge cadde in ginocchio e si prese la faccia nelle mani. Voi siete incatenato, perché? Trascino la catena che ho forgiato in vita. Me la sono fabbricata un anello dopo l'altro. Riesci ad immaginare il peso e la lunghezza della catena che porti tu? Era pesante e lunga come questa già 7 Natali fa. La tua è una catena massiccia ora. Scrooge si guardò intorno per terra, temendo di vedersi avviluppato in 50 o 60 metri di gomena ferrata, ma non vide niente. Vi prego. Sono qui per avvertirti che hai ancora una strada e una speranza di sfuggire alla mia sorte. Una strada che ti offro io, Ebenezer. Tu riceverai la visita di 3 spiriti. Attendi il primo domani al rintocco della prima ora. Attendi il secondo la notte dopo alla stessa ora. E il terzo la notte dopo ancora, quando l'ultimo rintocco della 12ª ora avrà cessato di vibrare. La faccia di Scrooge si fece bianca, quasi come quella dello spettro. Quanto a rivedere me non accadrà più. Ciò detto, lo spettro tolse il fazzoletto dalla tavola e se lo avvolse come prima intorno al capo. Scrooge se ne accorse dallo scricchiolio dei denti quando le mascelle si urtarono, strette dalla benda. Alzò gli occhi dubbiosi e si ritrovò ritto davanti al suo visitatore soprannaturale, con la catena avvolta al braccio. L'apparizione indietreggiò, ad ogni suo passo la finestra si apriva un poco, sicché quando lo spettro vi giunse, era spalancata. Lo spettro fece un cenno, Scrooge si accostò. Quando furono 2 passi distanti, lo spettro alzò la mano perché si fermasse. Più dell'obbedienza poterono in lui la stupefazione e il terrore, perché all'alzarsi di quella mano, egli udì dei rumori confusi nell'aria, suoni incoerenti di dolore e di disperazione, sospiri e guai di profonda angoscia e di rimorso. Mi dispiace. Lo spettro, stato un po' in ascolto, si unì al funebre coro e si dileguò nell'oscurità della notte. Christmas children peep into Christmas windows. See your world as pretty as a dream. Christmas trees and toys, Christmas hopes and joys, Christmas puddings rich with Christmas cream. Christmas presents shine in the Christmas windows, Christmas boxes tied with pretty bows. Wonder what's inside, what delights they hide, but till Christmas morning no one knows. Won't it be exciting if it snows? Santa brings their Christmas things. Christmas children live in a Christmas daydream, waiting for the magic to unfold. Wondrous things to eat, every Christmas treat, rich or not, the Christmas pot of gold hypnotizes children young and old. In un sol punto sparirono gli spettri e tacquero le voci. Tornò la notte profonda. Scrooge chiuse la finestra ed esaminò la porta attraverso la quale lo spettro era entrato. Era chiusa a doppia mandata, come egli stesso aveva fatto con le proprie mani, e i chiavistelli erano a posto. E tutto vestito com'era, se ne andò a letto e si addormentò all'istante. Quando si destò, era così fitto il buio che guardando dal letto distingueva appena la finestra trasparente dalle pareti opache della camera. Ficcava nelle tenebre i suoi occhi da furetto quando all'orologio di una chiesa vicina le campane suonarono l'1. Scrooge stette in ascolto per sentir l'ora, poiché lo spettro gli aveva annunciato una certa visita allo scocco dell'una. Al colpo seguì subito un suono profondo, cupo, dolente. Una luce improvvisa balenò nella camera e le cortine del letto furono tirate. Scrooge, balzando a sedere, si trovò faccia a faccia con l'essere soprannaturale che le aveva tirate. Era una strana figura, un che tra una bambina e una vecchia. Aveva i capelli bianchi, fluenti sul collo e giù per le spalle, ma non una ruga sul viso, anzi la giovinezza più fresca. Braccia lunghe affusolate e così pure le dita delle mani, come dotate di una grazia non comune. Portava una tunica bianca, stretta in vita da una cintura lucente. In mano teneva un ramoscello di verde agrifoglio. Ma la cosa più singolare era che dal capo le sprizzava un getto di luce viva. Ed era senz'altro per questo che si doveva servire nei suoi momenti cattivi di un grosso cappello che portava sotto il braccio. Ma nemmeno questa, quando Scrooge l'ebbe guardata meglio, era la stranezza maggiore. Perché scintillando quella sua cintura in qua e in là con un rapido scambio di luce e di ombra, la stessa persona pareva fluttuante e mutevole. Ed ora si mostrava con un braccio solo, ora con una sola gamba, ora con 20 gambe, o con un paio di gambe senza capo, o con un capo senza corpo. Né delle parti che sparivano si poteva scorgere un qualunque tratto nel buio fitto che le ingoiava. Siete voi lo spirito di cui mi è stata preannunciata la visita? Sono io. Chi e che cosa siete voi? Io sono lo spirito del Natale passato. Così dicendo, stese la mano e dolcemente lo prese per il braccio. Invano Scrooge avrebbe protestato che il tempo e l'ora non si addicevano a una passeggiata a piedi, che il letto era caldo e il termometro sotto zero. Non c'era verso di resistere a quella stretta, benché soave. Passarono insieme attraverso il muro, ed ecco, si trovarono in aperta campagna, sopra una strada che i campi fiancheggiavano. La città era scomparsa e il buio e la nebbia si erano dileguati con essa. Ed era una limpida giornata d'inverno e la neve biancheggiava al sole. Scrooge riconosceva ogni cancello, ogni albero, ogni piolo, quando ecco che apparve in distanza un villaggetto, col suo bravo ponte, la sua chiesa, il suo fiume tortuoso. Santi nomi, in questo posto ci sono cresciuto. Io da piccolo stavo qui. Le tue labbra stanno tremando. Videro venire al trotto certi cavallini montati da ragazzi, i quali chiamavano altri ragazzi in calessino o su qualche carretta, guidati da un fattore. Tutti questi ragazzi erano in grande allegria e tante grida si scambiavano che la vasta campagna suonava di una musica gioconda e l'aria stessa rideva in udirla. Li conoscevo tutti quanti. Erano tutti nella mia classe. Seguitiamo. I lieti viaggiatori si avvicinavano e via via Scrooge li riconosceva e diceva il nome di ciascuno. Perché si rallegrava oltre ogni dire nel vederli? Perché gli brillavano gli occhi e il cuore gli diede un balzo? Perché sentì un'insolita dolcezza sentendoli augurarsi un allegro Natale, nel punto di separarsi nei crocicchi per avviarsi ognuno verso casa propria? Che gli premeva a Scrooge di un allegro Natale? Al diavolo il Natale con tutta l'allegria. Che bene gli aveva mai fatto il Natale? Uscirono dalla via maestra per un ben noto sentiero e ben presto si avvicinarono a un fabbricato rossastro, col suo capannuccio in alto e la sua banderuola, e in quello una campana sospesa. Andarono lo spirito e Scrooge di là della corte verso una porta alle spalle di una casa. Si aprì loro davanti, mostrando un camerone nudo e malinconico, che pareva anche più vuoto di quel che era per certe file di banchi e di leggii. Ad uno di questi, presso un misero fuocherello, leggeva tutto solo un ragazzo. E Scrooge cadde a sedere sopra uno di quei banchi e pianse a riveder se stesso, misero e dimenticato, come allora soleva essere. Questa era la mia scuola. Questa scuola non è del tutto deserta. C'è ancora un ragazzo. I suoi compagni se ne sono andati e lui è rimasto in solitudine. Lo so. Poi, con un'insolita rapidità di transizione, esclamò compiangendo l'altro se stesso. Povero bambino. Povero, povero bambino. e di nuovo ruppe in lacrime. Scrooge si volse allo spirito e, tristemente crollando il capo, guardò con ansia verso la porta. Ebenezer! Questa si aprì. Una ragazzina molto più piccola del ragazzo balzò dentro, gli gettò letteralmente le braccia al collo a più riprese e lo baciò, chiamandolo Ebenezer! Caro, caro fratello, sono venuta per portarti a casa! A casa, piccola Fan? Sì, a casa! Papà è tanto più gentile, sai, di prima. Mi ha parlato così dolcemente una sera che ho vinto la paura e gli ho chiesto se potevi tornare a casa e lui ha detto di sì. E oggi mi ha mandato in carrozza a prenderti e potremo stare insieme tutti i Natali e sarà il periodo più felice e più allegro del mondo. Aveva un grande cuore. È morta da sposata e ha avuto, credo, dei figli. Sì, un figlio. Giusto. Tuo nipote. Sì. Benché proprio in quel punto si lasciassero dietro la scuola, già si trovavano per le vie affaccendate di una città, dove passavano e ripassavano ombre di uomini, di carri e di carrozze. Lo spirito si fermò davanti a un certo magazzino. Entrarono. Un vecchio signore in parrucca se ne stava a sedere dietro un banco. Appena lo vide, Scrooge gridò quasi fuori di sé. È il vecchio Fezziwick. Che Dio lo benedica, è Fezziwick in carne ed ossa. Yuhuu, ragazzi miei, basta lavorare stasera, è la vigilia di Natale. Evviva! Dick, Ebenezer, sgomberate tutto, ci vuole tanto spazio. Tanto, sì, tantissimo spazio. Ah, svelti! Non si può credere come i due giovanotti si dettero da fare. In meno di niente era fatto. Ogni oggetto mobile fu portato via come se dovesse sparire per sempre dalla vita pubblica. Il pavimento spazzato, smoccolati i lumi, ammucchiato il carbone per il fuoco. Ed ecco mutato il magazzino nella più acconcia e asciutta e tiepida sala da ballo che si possa desiderare in una sera d'inverno. Ed ecco entrare un suonatore di violino, arrampicarsi sul banco e mutarlo in orchestra. Ecco la signora Fezziwig, grassotta e allegra. Ecco le tre signorine Fezziwig, raggianti e adorabili. Ecco tutti i giovani e le giovani della casa. E ci furono danze e giochi e focacce, pasticcini e birra a profusione. Scrooge rivide se stesso. Era adulto, nel fiore della vita. Non aveva ancora i lineamenti aspri di un'età più matura, ma già mostrava i segni dell'avarizia. C'era nell'occhio una mobilità irrequieta, avida, ardente. Non era solo. Sedeva accanto a lui una bella fanciulla vestita di bruno. Alla luce dello spirito brillavano di lacrime gli occhi di lei. Un altro idolo ha preso il mio posto. Un altro idolo? Quale idolo? Un idolo d'oro. Voi avete troppa paura del mondo, Ebenezer. Siete cambiato. Cambiato? Più accorto, forse sono. Ma non sono affatto cambiato con voi. La nostra promessa è antica, ce la scambiamo quando eravamo entrambi contenti della nostra povertà. Voi, che valutate tutto in base al guadagno. Vi sciolgo dalla promessa, Ebenezer. Possiate essere felici nella vita che vi siete scelto. Spirito, portatemi via da questo posto. Te l'ho detto, queste sono solo le ombre delle cose che sono state, sono quello che sono. Non devi ingombrare me. Portatemi via, non riesco a sopportarlo. Destato nel pieno di un russo prodigiosamente fragoroso e sorgendo a sedere nel mezzo del letto per raccogliere i suoi pensieri, Scrooge non ebbe bisogno di sentirsi dire che il tocco stava per suonare da capo. Sentiva di essere tornato in sé al momento preciso per incontrare il secondo messo mandatogli per mezzo di Jacob Marley. Se non che, per l'angoscia che lo prese pensando a quale delle cortine il novello spirito si sarebbe affacciato, le aprì tutte con le proprie mani. Poi, rimettendosi a giacere, stette tutto vigile a guardare intorno. Entra, Scrooge! Si alzò lentamente e se ne andò strascicando in pantofole verso la porta. Era la sua camera, proprio quella, ma trasformata mirabilmente. Pendevano dal soffitto e dalle pareti tante frasche verdeggianti da formare un vero boschetto, in mezzo al quale le bacche lucenti mandavano raggi di fuoco vivo. Avvicinati! Avvicinati e vieni a conoscermi, uomo! Ammucchiati a terra, quasi a formare una specie di trono, c'erano tacchini, forme di cacio, polli, porcellini da latte, lunghe ghirlande di salsicce, focacce e pasticcini, castagne cotte, mele, arance succose, tazzoni di pons bollente che annebbiavano la camera col loro delizioso vapore. Adagiato su questo giaciglio un allegro gigante, magnifico all'aspetto, che brandiva con la destra una torcia fiammante, quasi a foggia di un corno di abbondanza, e l'alzava per gettarne la luce sulla persona di Scrooge. Io sono lo spirito del Natale presente. Guardami bene! Agrifoglio, edera, tacchini, cacio, polli, salsicce, focacce, pasticcini, tutto sparì all'istante. E così pure la camera, e il fuoco, e la vampa rosseggiante. Ed eccoli tutti e due la mattina di Natale per le vie della città. Il buono spirito portò di filato Scrooge a casa di Bob Cratchit, il suo commesso. E giunto sulla porta, sorrise e si fermò per benedire la dimora con gli spruzzi della sua torcia. Figurarsi, Bob non aveva che 15 scellini alla settimana, eppure lo spirito di Natale volle benedire quella sua povera dimora. Dentro la signora Cratchit, la moglie di Bob, con indosso una povera veste tutta galante di nastri, che costano poco e fanno una figura vistosa. E la signora Cratchit mise la tovaglia, con l'aiuto della figlia Belinda, secondogenita, anche lei raggiante di nastri, mentre il piccolo Pietro si chinava per immergere una forchetta nella pentola delle patate. Due Cratchit più piccini, maschio e femmina, irruppero dentro gridando che da fuori avevano sentito il profumo dell'oca al forno. Mamma, veniamo ora dal negozio del fornaio. Abbiamo sentito il profumo dell'oca che cuoce deliziosamente. Porta, per favore. Oh, che farà quel benedetto uomo di vostro padre e vostro fratello? E Marta, lo scorso Natale era già a casa da un bel pezzo. E inebriandosi nella festosa visione di una salsa di salvia e cipolla, i due piccoli Cratchit si misero a danzare intorno alla tavola. Fa un freddo fuori. Ciao, papà. Ciao, Timmy. Ma ecco entrare Bob, il padre, coi vestiti ben rammendati e spazzolati per parer di festa, e con il piccolo Timmy sulla spalla. Povero Timmy, portava una gruccetta e una macchinetta di ferro su una gamba per tenersi ritto. Tornando a casa mi ha detto che sperava che la gente in chiesa l'avesse guardato, storpio com'è. Perché deve far piacere il giorno di Natale ricordarsi di colui che ha fatto camminare gli zoppi e vedere i ciechi. La voce di Bob tremava un poco e più forte tremò quando soggiunse che Tim s'andava facendo più sano e più forte. Mi pare che cresca ogni giorno più sano e più robusto, mia cara. Spirito, ditemi, ma Timmy... All'angolo del povero focolare io vedo un posto vuoto e una gruccetta senza proprietario. Scrooge abbassò il capo, udendo le proprie parole citate dallo spirito, e si accasciò sotto il pentimento e il dolore. Evviva! Eccola! Oh, fate spazio! L'oca di Natale! Togliamo questo primo. Un brindisi. Al signor Scrooge, il finanziatore della festa. Ah, il finanziatore della festa, altro che... Lo vorrei qui. Gliela farei vedere io una festa a modo mio e vorrei che avesse un bel appetito per gustarsela. Mia cara, i bambini... È il giorno di Natale. Un bel giorno di Natale, certo, ma come si può bere alla salute di un uomo così odioso, taccagno, duro e insensibile come il signor Scrooge? Lo sai che lo è, Robert? I ragazzi bevvero anch'essi alla salute di Scrooge. Era il primo dei loro atti che non fosse cordiale. Scrooge era l'orco della famiglia. Il solo nome di lui aveva gettato sulla lieta brigata un'ombra. La famiglia non era bella. Nessuno sfoggio di vestiti, le scarpe tutt'altro che impermeabili, meschina la biancheria. Ma erano felici lo stesso, riconoscenti, lieti di trovarsi insieme. E nel momento stesso in cui si dileguavano, Sembrando ancora più felici nella pioggia di luce che emanava dalla torcia dello spirito, Scrooge li guardò tutti, soprattutto il piccolo Timmy, fino all'ultimo istante. Felice Natale! Felice Natale! Felice Natale! Gentile spirito, ditemi che Timmy vivrà. Se queste ombre non muteranno in futuro, il bambino morirà. Morirà! No, spirito, no! Calava intanto la notte e cadeva fitta la neve. E mentre Scrooge e lo spirito andavano per le strade, era ammirabile lo splendore dei fuochi raggianti nelle cucine, nei tinelli, in ogni sorta di stanze. Così fu per Scrooge una gran sorpresa, così assorto com'era, nell'udire una risata squillante. E crebbe la sorpresa quando riconobbe la voce del proprio nipote e si trovò in un salottino ben rischiarato, ben caldo, aggiustato, con accanto lo spirito che sorrideva e che fissava quel medesimo nipote con uno sguardo di compiacenza. Dunque stai pensando ad un animale? Sì. È un animale vivente? Sì. Piuttosto antipatico come animale? Sì. Oh. Un animale selvaggio? Sì. Ah, aspetta! È un animale che grugnisce e ringhia? Sì. Il nipote di Scrooge dette in un'altra risata. E poiché non si poteva evitare il contagio, l'esempio fu seguito da tutti. Dopo un po' vennero i giochi di penitenza. Perché fa bene a momenti tornare bambini, e più che mai a Natale. In tutti erano una ventina, tra giovani e vecchi, ma tutti giocavano, e Scrooge con loro. Il vecchio, scordandosi per la foga improvvisa del gioco, che la sua voce non poteva essere udita da loro, gridava alto la parola dell'indovinello, e più di una volta imbroccava anche. Lo spirito era molto lieto nel vederlo così partecipe, e con tanta benevolenza lo guardava, che gli pregò come un bambino che gli si permettesse di rimanere fino in fondo. Of all the days in all the year that I'm familiar with, there's only one that's really fun. December 20th. Ask anyone called Robinson or Brown or Jones or Smith their favorite day and they will say December 25th. December the 25th. Yes, December the 25th. The dearest day in all the year. December the 25th. Correct. Times we're glad to see the back of all our kin and kith, but there's a date we celebrate, December the 25th. Correct. At times our friends may seem to be devoid of wit and pith, but all of us are humorous, December the 25th. Correct. December the 25th, my dears, December the 25th, the dearest day in all the year. There's a day in history that's more than any myth, beyond a doubt when day stands out, December 25th. Correct. I don't hear any arguments, so may I say forthwith, I wish that every day could be December the 25th. December the 25th, my dears, December the 25th, the dearest day in all the year. December the 25th, my dears, December the 25th, my dears. Ecco, decide che noi non gli andiamo a genio, che non vuole venire a cena da noi. E qual è la conseguenza? Che si perde una cena. Certo, si perde una buonissima cena. Altro che, una magnifica cena. Una cena eccellente. Ci ha fatto divertire un mondo, davvero. E sarebbe davvero ingrati non fare un brindisi alla sua salute. Non ha voluto accettare il mio augurio, ma che possa averlo lo stesso. Un felice Natale al vecchio, qualunque cosa gli sia, zio Scrooge! Allo zio Scrooge! Lo zio Scrooge era diventato a poco così gaio e leggero di cuore che avrebbe risposto volentieri al brindisi della brigata e ringraziato con un discorso se lo spirito glielo avesse concesso. Ma tutta la scena, nello spegnersi dell'ultima parola detta dal nipote, si dileguò. E Scrooge e lo spirito tornarono a viaggiare come prima. Ad un tratto Scrooge si guardò intorno cercando lo spirito e non lo vide più. Squillarono le tre E udendo l'ultimo colpo, Scrooge ricordò la predizione del vecchio Jacob Marley e, alzando gli occhi, scorse un solenne fantasma, ammantato e incappucciato, il quale avanzava come fosse solo nebbia che sfiori il terreno verso di lui. Lento, grave, silenzioso. Scrooge, nel vederselo davanti, cadde in ginocchio, perché in verità questo dei tre spiriti era il più spaventoso, pieno di ombra e di mistero. Una specie di ombra nera lo avvolgeva tutto, nascondendogli il capo, la faccia, ogni forma. Solo una mano distesa sporgeva. Senza di ciò sarebbe stato difficile discernere la cupa figura dalla notte, separarla dalle tenebre che la stringevano. Mi trovo in presenza dello spirito del Natale a venire? Chiese Scrooge. Non rispose lo spirito e solo accennò con la mano. Voi mi mostrerete le ombre delle cose non ancora accadute, ma che stanno per accadere. È così, spirito? La parte superiore del paludamento si aggruppò un momento nelle sue pieghe, come se lo spirito avesse inclinato il capo. Fu questa l'unica sua risposta. Spirito del futuro, io temo voi più di ogni altro spirito incontrato finora, ma so che il vostro proposito è di farmi del bene e sono pronto ad unirmi a voi. Guidatemi. Il fantasma si mosse lento e grave come era venuto. Scrooge lo seguì come avvolto nell'ombra del paludamento e in quella si sentì portar via. Si ritrovò in una camera buia, tanto buia da non poter osservare intorno con accuratezza. Una luce scialba che veniva da fuori mandò un raggio su un letto e su questo, spogliato, rubato, solo, senza pianto, giaceva il corpo di un uomo. Scrooge volse un'occhiata al fantasma. La mano rigida accennava al capo del morto. Il lenzuolo era così male aggiustato che col minimo tocco d'un dito Scrooge avrebbe potuto scoprire quella faccia. Vi pensò, ne vide l'agiatezza, se ne struggeva, ma non aveva maggior potere di rimuovere quel velo che di allontanare da sé lo spettro silenzioso. Il fantasma distese un momento la scura veste davanti a lui come un'ala e, ritraendola, si ritrovarono nella casetta, già prima visitata, del povero Bob Cratchit, e vi ritrovarono la mamma e i figliuoli raccolti intorno al fuoco. Erano tranquilli, muti come statue. La mamma e le figliuole attendevano al cucito. La signora Cratchit posò il lavoro sulla tavola e si coprì la faccia con le mani. È tardi. Vostro padre rincasava prima. Lui cammina più lento da qualche sera in qua. Oh, contimi. Sulle spalle lui camminava svelto, è certo. Ma Timmy era molto leggero da portare. Vostro padre lo amava così tanto. Bob Cratchit entrò in casa. Il tè lo aspettava accanto al fuoco e tutti fecero a gara per servirglielo. Papà. Lasciò la stanza e andò nella cameretta di sopra, che era tutta illuminata e ornata di ghirlande di Natale. C'era una sedia accanto al letto che era del piccolo Timmy. E si vedeva a più segni che qualcuno c'era stato di fresco. Sono sicuro che nessuno di noi dimenticherà mai il povero Timmy. Oh no, papà, mai, no, papà, mai. Mai. Grazie. Grazie, miei cari. You were true to me. You were everything. You were good for me. I who must travel on What hope for me? Dream where my past has gone. Live with the memory. You, my only hope. You, my only love. You. Ancora, lo spirito di Natale di là da venire lo trasportò come prima nelle vie frequentate dagli uomini d'affari, ma non gli mostrò l'altro se stesso. Scrooge lo pregò di arrestarsi un momento, perché aveva riconosciuto l'edificio del suo banco. Corse a dare un'occhiata alla finestra. Sempre banco era, ma non più il suo. Erano mutati i mobili e la persona seduta in poltrona non gli somigliava. Il fantasma accennava sempre allo stesso modo. Egli lo raggiunse e, ruminando perché e dove se ne fosse andato, lo accompagnò fino a un cancello di ferro. Prima di entrare si guardò intorno. Un cimitero. Qui dunque lo sciagurato di cui gli sarebbe stato svelato il nome, qui giaceva sottoterra. Un bel posto davvero. Lo spirito stette fra le tombe e abbassò il dito segnandone una. Scrooge vi si accostò tremando e seguendo il dito lesse sulla pietra della tomba negletta il proprio nome. Ebenezer Scrooge. Ma sono io l'uomo che giaceva su quel letto di morte! No, spirito! Ascoltatemi! Io non sono più l'uomo che ero! Perché mostrarmi tutto questo se non ho più speranza? Spirito! Assicuratevi che posso ancora cambiare le ombre che mi avete mostrato! Che posso cambiarle mutando la mia vita! No, spirito! No! No, spirito! No! Afferrò nell'angoscia che lo straziava la mano dello spirito. Questi cercò di divincolarsi dalla stretta, ma Scrooge pregava e resisteva. Lo spirito, più forte di lui, lo respinse. Aiutatemi! Alzando le mani in una estrema preghiera di veder mutato il suo fato, notò una trasformazione nella veste e nel cappuccio del fantasma. Lo spirito si strinse in sé, si rannicchiò, si rassodò, divenne una colonna del suo letto. Suo il letto, sua la camera. Ancora qui? Sono ancora qui. Ma io sono ancora qui. Io sono ancora qui. Sì, sono ancora qui. Corse alla finestra, l'aprì, mise fuori il capo. Niente nebbia. Un'aria limpida, cristallina, gioconda. Un sole d'oro, un cielo blu. Freschetto, non freddo. E quelle campane così allegre, oh bello, magnifico! Che giorno è oggi? È il giorno di Natale! Il giorno di Natale? Non l'ho mancato. Gli spiriti hanno fatto tutto in una notte. Riescono a fare ciò che vogliono. Certo che sì, certo che sì. Buongiorno, signore. Felice Natale. Anche a voi, signore. Buone feste a voi. E felice Natale anche a te. E Dio vi benedica, signore. Grazie, signore. Tanti auguri. Buongiorno, signore. Scrooge fu anche più largo della sua parola. fece quanto aveva detto e infinitamente di più. E in quanto al piccolo Timmy, che non morì, fu come un secondo padre per lui. Mio caro signore, come state? Felice Natale a voi, signore. Signor Scrooge? Sì, è il mio nome. E temo non vi sia molto gradito. Ma permettetemi di chiedervi perdono. Divenne così buon amico, così buon uomo, come se ne trovavano un tempo nella buona vecchia città, o in qualunque altra vecchia città, o paesello, o borgata nel buon mondo di una volta. Alcuni risero di quel mutamento, ma egli li lasciava ridere e non vi badava. Anche egli, in fondo al cuore, rideva. E gli bastava questo, e non chiedeva altro. Con gli spiriti non ebbe più da fare, ma si rifece con gli uomini. E di lui fu sempre detto che non c'era uomo al mondo che sapesse così bene festeggiare il Natale. Così lo stesso si dica di noi, di tutti noi e di ciascuno. Testo tratto da Il canto di Natale di Charles Dickens, edizioni Giunti. Audiogrammi è un programma ideato e condotto da Laura Faggin e Paolo Corleoni. Voce Laura Faggin. I love you just the way you are. A cinema.